Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho sentito dire che noi non avremmo riconosciuto la sconfitta referendaria. Ma io devo dire che la canzone diceva se stasera sono qui. Diciamo, se stasera sono qui è perché abbiamo riconosciuto le ragioni della... L'abbiamo fatto. Avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il neo presidente del Consiglio Gentiloni non disdegna di citare addirittura Luigi Tenco per dire stasera sono qui, è perché appunto voi non vi siete presi la responsabilità, le opposizioni, di fare appunto un governo di responsabilità, quindi siamo qui perché si è dimesso Renzi e dice che in realtà il fatto che, come lo accusano, il governo Gentiloni sia un governo fotocopia, diciamo, di quello di Renzi, non è un limite, dice, ma anzi nella continuità di qualcosa che ha funzionato, che ha fatto ripartire l'Italia. Questo, diciamo, in sintesi il giudizio che ha dato Gentiloni del governo precedente, quindi delle motivazioni di quello che è ormai stato varato per quanto riguarda la Camera, perché è stata votata oggi la fiducia e domani si passa al Senato. Di questo parleremo ampiamente finché mi regge naturalmente la voce. Lo sapete, ormai lungo tempo l'inverno anche qui non fa molto caldo, anche qui dentro. E poi ci occuperemo anche del caso Muraro, la Giunta di Roma se ne torna a parlare perché l'assessora Muraro, dopo tanti tira e molla, difese e resistenze eccetera, oggi ha deciso di dimettersi e poi ricostruiremo anche tutta la vicenda giudiziaria. Dopodiché, a proposito di questioni giudiziarie, ci occuperemo anche di una sentenza piuttosto insolita di un giudice che a Catania ha deciso di affidare il bambino al padre e di chiedere alla madre l'assegno mensile. Tutto questo qui Effetto Notte, insieme a molte altre cose come sempre, anche le vostre interazioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666. Come sempre, all'inizio però vi racconto la giornata. Governo Gentiloni, la Camera vota la fiducia con 368 sì, tensioni in aula con la Lega, Carroccio e 5 Stelle restano fuori dall'aula, è un esecutivo di responsabilità, sottolinea il Presidente del Consiglio. Roma si dimette l'assessora Muraro, sono indagata, dice, ma sono tranquilla e respingo tutte le accuse. 5 i capi di imputazione, contestati i reati ambientali. La sindaca Raggi in un video selfie accetta le dimissioni. Siria, la Russia annuncia la battaglia ad Aleppo è finita, ma l'ONU denuncia che decine di civili sono stati trucidati dalle forze lealiste del presidente siriano Assad. Scalata a Mediaset, Vivendi sale a 12,3%, Fininvest denuncia i francesi per manipolazione del mercato, il titolo del Biscione vola. Iran, il presidente Rouhani annuncia un'azione legale contro gli Stati Uniti per violazione dell'accordo sul nucleare e le sanzioni. Il naufragio del 2015 con 700 morti, condannati gli scafisti, 18 anni di reclusione per il capitano e 5 anni per il suo mozzo, oltre a una sanzione di oltre 9 milioni di euro ciascuno. Sentenza della Cassazione, no alle tasse ridotte per hotel di enti religiosi se non offrono prezzi significativamente ridotti rispetto a quelli di mercato. E per il nuoto, Federica Pellegrini e Magnini in crisi, Natale da separati. Partiamo quindi dalla politica, naturalmente, con il governo Gentiloni che incassa la fiducia alla Camera, come dicevo, con 368 sì, 108 i no, e ora il suo esecutivo di responsabilità è ufficialmente varato, anche se va detto che l'aula semivuota oggi per l'assenza di Movimento 5 Stelle e Lega Nord e anche per molti posti vuoti nei banchi di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e dei fittiani di Conservatori e Riformisti, denota naturalmente un clima di tensione e piuttosto di inquietudine tra chi vuole il voto subito, chi annuncia un'opposizione senza sconti. A Montecitorio intanto il nuovo Presidente del Consiglio rivendica la responsabilità di un governo a pieno titolo, dice, traccia a grandi linee l'agenda dei prossimi mesi, dalla legge elettorale che però sarà fatta dal Parlamento e non dal governo, all'esigenza di rimettere al centro il lavoro, all'immigrazione, alle questioni internazionali, e chiede uno stop all'escalation di violenza verbale. Non manca poi una stoccata anche ai grillini, dice, i super paladini della centralità del Parlamento che nel momento della fiducia sul governo non ci sono. Vi sembra logico, dice. La politica e il Parlamento sono il luogo del confronto dialettico, non dell'odio o della post-verità. Chi rappresenta i cittadini deve diffondere sicurezza, non paura. Su questo è impegnato il governo e anche su questo chiede alla Camera la sua fiducia. E sempre Gentiloni, sentiamolo sulla durata del governo. Lascio alla dialettica tra le forze politiche il dibattito sulla durata del nuovo governo. Per quanto ci riguarda vale la Costituzione. Il governo dura fin quando ha la fiducia del Parlamento. Spetta a me piuttosto indicare quali saranno le priorità della nostra azione tesa a completare il lavoro fatto fin qui. La prima priorità è senz'altro l'intervento nelle zone colpite dal terremoto. E le opposizioni, dicevo, hanno lasciato l'aula, parlano di governo fotocopia e tornano a chiedere il voto subito. È un fronte compatto quello delle opposizioni nel dire no al governo Gentiloni. Lega e Movimento 5 Stelle scelgono di abbandonare l'aula durante il discorso del Presidente del Consiglio e poi durante il voto di fiducia. La sovranità appartiene al popolo, spiegano i capigruppo del Carroccio in una manifestazione improvvisata davanti Palazzo Chigi. Nasce un esecutivo già sfiduciato il 4 dicembre, spiegano i pentastellati, così Giulia Grillo. È già stata votata da quasi 20 milioni di persone, noi rispettiamo loro, non voi, e vi lasciamo a questo ultimo patetico teatrino. No alla fiducia e si voti in tempi rapidi la posizione di Fratelli d'Italia. Apprezziamo il suo fair play, dice Brunetta Gentiloni, ma avete diviso il paese, aggiunge l'esponente di Forza Italia. Non ve lo perdoneremo, non ve lo perdoneranno gli italiani. No al governo della palude e dell'immobilismo, dice Sinistra Italiana. Assenti dall'aula di Montecitorio quindi i verdiniani. Attendiamo chiarimenti, spiega Zanetti, perché ala Scelta Civica sia stata esclusa dal governo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto per il PD il congresso incombe, in molti si chiedono quali saranno le mosse di Matteo Renzi, cosa accadrà all'Assemblea Nazionale del PD che ci sarà il prossimo 18 dicembre, ma tra poco comunque torneremo a parlare di questa, dell'attuale scena politica internazionale. Dalla politica nazionale a quella romana si dimette l'assessora alla sostenibilità ambientale Paola Muraro. Sono indagata, dice, ma sono tranquilla e respingo tutte le accuse. 5 i capi di imputazione contestati sono reati ambientali. La sindaca Raggi in un video selfie accetta le dimissioni. Ho appena finito una riunione di maggioranza. Ho comunicato ai miei consiglieri di aver accettato le dimissioni dell'assessore Paola Muraro. La stessa mi ha comunicato infatti di aver ricevuto da poco un avviso di garanzia per presunte violazioni del testo unico ambientale. Non sono entrata nel merito dell'avviso. Ho accettato le sue dimissioni e ho assunto le deleghe alla sostenibilità ambientale. Ritengo importante, infatti, dare continuità all'azione amministrativa sia nel risanamento di Ama che nel rilancio di tutto il settore ambientale. E anche su questo torneremo poi più tardi qui Effetto Notte. E dalla capitale arriva la pronuncia della Cassazione sulla tassazione di hotel e pensionati di enti religiosi. No a tasse ridotte per alberghi e pensionati gestiti da enti religiosi e organizzazioni no profit che applicano tariffe di mercato. La stretta sugli sconti fiscali arriva con una sentenza della Corte di Cassazione. Secondo i giudici della Suprema Corte, se queste strutture vogliono godere di una tassazione agevolata, devono offrire prezzi significativamente ridotti rispetto a quelli di mercato, altrimenti si altera il regime di libera concorrenza. E se le regole di mercato non si rispettano, si usufruisce di un beneficio che non spetta e che si tramuta in aiuto di Stato. La sentenza della Cassazione dà così ragione all'Agenzia delle Entrate, contraria all'IRES ridotta, ossia l'imposta sul reddito delle società, per l'Istituto delle Rosine di Torino, grande pensionato vicino al polo universitario. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo della borsa. Piazza Affari, miglior listino europeo, ha chiuso a più 2,49% grazie al boom di Mediaset, che ha registrato un più 31,8%, di Unicredit più 15,9%. Il titolo di Cologno Monzese si è infiammato dopo l'annuncio della scalata di Vivendi, ancora carte bollate comunque tra il Biscione e la società francese. Vivendi non arretra di un millimetro, anzi, a borsa chiusa comunica di avere poco più del 12% di Mediaset. Dall'altra parte Fininvest, l'azionista di controllo del gruppo di Cologno, passa alle vie legali, presentando alla Procura della Repubblica di Milano e per conoscenza alla Consob una denuncia per manipolazione del mercato nei confronti di Vivendi. Questo al termine di una giornata contrassegnata dal balzo di Mediaset a Piazza Affari. Del resto il mercato si sta muovendo spinto dalla consapevolezza che ci sia l'affare o quantomeno un grosso tentativo di scalata, che a Cologno non hanno esitato di definire ostile già da ieri. Del resto la lettura è stata categorica, quello di Vivendi era un disegno preciso: creare le condizioni per far scendere il prezzo del titolo e lanciare a prezzi di sconto una scalata ostile. Certo, Mediaset ha già chiamato al suo fianco Unicredit e Intesa San Paolo, ma il patron di Vivendi, Vincent Bolloré, non è tipo che molla la presa. L'aveva detto a luglio che avrebbe voluto un accordo per avere Vivendi al 15% di Mediaset. Non ha avuto l'accordo, ma è al 12% e il 20% è lì a un passo. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso all'estero, con la Siria, la Russia ha annunciato circa un'ora fa la battaglia di Aleppo è finita, ha detto l'operazione antiterrorismo dei militari siriani è finita e le forze fedeli al presidente Assad hanno ora il pieno controllo della zona orientale di Aleppo, dove si trovavano le ultime sacche di resistenza dei ribelli in città. Però la Russia dice anche all'ONU, ha detto che tutti i militanti stanno lasciando Aleppo Est con le loro famiglie per destinazioni di loro scelta, ma le Nazioni Unite denunciano terribili atrocità, dicono che decine di civili, tra cui molte donne e molti bambini, sono stati trucidati dalle forze lealiste del presidente siriano Assad. Ancora all'estero, con l'Iran, il presidente iraniano Rouhani ha incaricato il ministro degli esteri di intraprendere un'azione legale contro gli Stati Uniti per i ritardi nell'attuazione dell'accordo sul nucleare e per la palese violazione scaturita dall'estensione delle sanzioni all'Iran per altri 10 anni votata dal Senato americano. Rouhani ha chiesto al ministro degli esteri di avviare nel contempo però anche un'azione diplomatica e riferire i risultati entro un mese. Quindi insomma il bastone e la carota, diciamo. Parliamo di immigrazione. Sono in totale 791 immigrati tratti in salvo oggi nel Mediterraneo centrale in 7 diverse operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera. Intanto a Catania sono arrivate le condanne per gli scafisti del naufragio che l'anno scorso costò la vita a 700 persone, vi ricordate? Quindi 18 anni di reclusione per il capitano e 5 anni per il suo mozzo, oltre a una sanzione di oltre 9 milioni di euro ciascuno. Questa è la sentenza per i due presunti scafisti del grande naufragio, la più grande tragedia di migranti nel Mediterraneo, che appunto ha fatto registrare oltre 700 morti, avvenuta il 18 aprile 2015 e furono soltanto 28 le persone sopravvissute. Chiudiamo un po' in leggerezza, almeno diciamo dal punto di vista della notizia, ma per loro magari non è tanto leggera, una notizia che arriva dal nuoto con la separazione che sembrerebbe confermata tra Federica Pellegrini e Magnini. Lei che festeggia con le compagne di nazionale le medaglie appena conquistate ai mondiali in vasca corta in Canada, tra cui brilla l'oro nei 200 stile libero, ma evita con un gelido no comment le domande sulla sua situazione sentimentale. Lui che glissa allo stesso modo, spiaccicando ermetici monosillabi. Atto secondo della crisi d'amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Sì, perché la divina delle piscine e Filippo Magno, fidanzatisi durante i mondiali di Shanghai 2011, ricordate il turbolento triangolo con l'altro azzurro Luca Marin, lasciato da Superfede per il nuovo amore, in crisi già c'erano stati nel maggio 2013 con tanto di comunicato ufficiale di separazione. Poi il riavvicinamento, il 34enne pesarese che ritrova forma e diventa trascinatore delle staffette veloci azzurre, la 28enne veneta che torna protagonista malgrado l'amaro quarto posto a Rio 2016. Ora invece il nuovo distacco che preannuncia forse un futuro fatto ancora di piscine, bracciate e cloro, ma in corsie diverse. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E direi che questa è la giornata in sintesi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Voi cominciate con le vostre riflessioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Per appunto le vostre interazioni. Stavo guardando le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, però ve li do dopo la viabilità. Invece tra i vostri messaggi fa bene a insistere, dice Job, contro tutto e contro tutti. Chi, Gentiloni, immagino. Mattarella ha salvato il paese dai grillini, abbiamo 2 anni per prepararci al peggio. E poi invece un ascoltatore, Antonio, dice: mi raccomando Roberta, legga solo i post dei più rancorosi e vocianti squadristi digitali as usual. Ma non lo so veramente se leggo gli uni si arrabbiano gli altri, io invece cerco di leggere quelli che è possibile leggere, anche perché ne arrivano molti, quindi non è che li vedo neanche tutti. Poi dice Walter: ma Gentiloni, ora che non c'è più Renzi, andrà all'inaugurazione già promessa entro fine anno della Salerno-Reggio Calabria? Ma tra poco lo chiederemo alla nostra commentatrice politica. Voi continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vi avete sentite, no? Le notizie principali nel riassunto all'inizio, non dovete perdervi assolutamente di Effetto Notte. Ricordatevi di accendere puntualmente alle 21, Roberta Giordano con voi tutte le sere fino alle 22. Oggi ci occuperemo naturalmente dei primi passi del governo Gentiloni, che oggi ha ottenuto la fiducia intanto alla Camera, domani poi se ne parla al Senato. E oggi Gentiloni, fra le varie cose, ha difeso il governo di continuità con quello di Renzi, perché dice non è un limite, anzi, siccome sono stati ottenuti dei risultati e l'Italia ha ripreso ad andare, insomma, è ripartito, perché no, non è certamente un limite, anzi rivendico questa continuità, che è appunto l'accusa che gli muovono le opposizioni. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Villa dice: ne hanno ancora per poco, alle prossime elezioni ovviamente saranno spazzati via. Mentre Thomas scrive: sono parole rivolte alla maggioranza, quelle di Gentiloni, visto che l'opposizione sono uscite a farsi cappuccino e brioche. Allora vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata. Prima fiducia ottenuta alla Camera dal governo Gentiloni. Lui sottolinea: un governo di responsabilità, basta insulti. Il Parlamento dice non è un social network. E poi il caso Muraro, l'assessora della giunta Raggi indagata si dimette, tensione per il Movimento 5 Stelle, sono 5 i capi di imputazione e la sindaca prende ad interim l'incarico mentre il PD va all'attacco della giunta Raggi. E poi Vivendi conquista il 12,32% di Mediaset, che vola in borsa. Il Biscione però denuncia il capo di Vivendi Bolloré e la Consob avvia delle indagini. E poi orrore ad Aleppo, in Siria decine di civili trucidati dai lealisti secondo la denuncia dell'ONU, mentre Mosca annuncia la battaglia è finita. Per il naufragio terribile del 2015 nel Mediterraneo con 700 morti, oggi è arrivata la sentenza, 18 anni al capitano di quel barcone e 5 al mozzo. E poi Milano, regina della ecomobilità, cresce il car sharing e anche approvazione per quanto riguarda parcheggi e trasporto pubblico. Ho sentito dire che noi non avremmo riconosciuto la sconfitta referendaria. Io devo dire che la canzone diceva se stasera sono qui, diciamo se stasera sono qui è perché abbiamo riconosciuto le ragioni della... l'abbiamo fatto. Quindi come sentivate all'inizio, Gentiloni che appunto cita Luigi Tenco in questa sua presentazione del suo governo oggi alla Camera, dove poi in serata ha ottenuto la fiducia con 368 sì. Sentiamo anche cosa ha detto sempre Gentiloni a proposito della maggioranza di governo che si assume un rischio politico. Non c'è stata questa disponibilità e le forze della maggioranza precedente si sono assunte la responsabilità di andare avanti. Si sono prese un rischio dal punto di vista politico? Certamente si sono prese un rischio, ma si sono prese questo rischio esattamente nel rispetto dei doveri costituzionali che sono previsti nel nostro ordinamento. E dobbiamo, credo, un minimo di coerenza riconoscerlo ai nostri comportamenti. E a proposito della domanda che molti si fanno, ma quanto durerà questo governo, sentiamo cosa risponde Gentiloni. Lascio alla dialettica tra le forze politiche il dibattito sulla durata del nuovo governo. Per quanto ci riguarda vale la Costituzione, il governo dura fin quando ha la fiducia del Parlamento. Oggi sapete che poi il Movimento 5 Stelle e Lega hanno disertato l'aula e anche Scelta Civica ALA ha deciso di non votare la fiducia, i verdiniani, insomma, perché dicono come mai ci hanno lasciato fuori dal governo. Allora cominciamo a sentire un po' le voci anche dell'opposizione con per esempio Federica della Lega Nord. Presidente, qui non ci troviamo di fronte a una normale situazione dove esiste una maggioranza scelta dai cittadini che governa il Paese. Qui siamo di fronte a una sovversione della volontà popolare. E proprio per questo, e proprio per rappresentare il volere del popolo, la Lega non parteciperà alla fiducia, e non per rivendicare poltrone, ma per rappresentare il popolo. Togliete questo striscione, toglietelo, intervengano gli assistenti parlamentari, non mi costringete a sospendere la seduta. Toglietelo! La sovranità appartiene al popolo, non alla segreteria del Partito Democratico, né tantomeno a Renzi. Insomma, decisamente un clima atteso, come avete sentito. E poi adesso, sempre dall'opposizione, Brunetta di Forza Italia. Gli italiani hanno il problema della disoccupazione, della bassa crescita, hanno il problema della povertà, hanno il problema dell'immigrazione clandestina, della sicurezza, dal terrorismo. Gli italiani hanno questi problemi e noi ci troviamo con un partito che ha preso nel 2013 il 25% dei voti, che continua a fare carne di porco della nostra democrazia. Ma vi par possibile? E adesso Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Dunque, Presidente, il gruppo di Fratelli d'Italia voterà alla fiducia al governo Gentiloni esattamente come hanno votato gli italiani lo scorso 4 dicembre, con un chiaro, deciso, fragoroso no. Perché lo scorso 4 dicembre, anche se sembra non ricordarselo più nessuno, 20 milioni di italiani sono andati a votare per bocciare a grande maggioranza la riforma costituzionale del governo Renzi. E con lei il governo stesso, che su quella riforma aveva di fatto messo la fiducia, trasformando il referendum in un referendum sull'esistenza stessa del governo Renzi. E ora, per chiudere questa parte, sentiamo anche però minoranza PD con Bersani, che, se Gentiloni ha citato Luigi Tenco, lui cita Pascoli. Come dice Giovanni Pascoli, c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico. Così, senta, qual è un governo così. Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, cara Barbara. Buonasera a tutti. Quindi Bersani dice c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico. Insomma, quindi diciamo la critica maggiore che si fa al governo Gentiloni, ormai lo sappiamo, è quella di essere un governo fotocopia rispetto a quello di Renzi, però lui oggi ha rivendicato con orgoglio, dice ha fatto dei passi avanti, ha fatto ripartire il paese e quindi non è un limite. Ma è evidente che questo è un governo di continuità rispetto al precedente. Ma come dire, in qualche modo viene rivendicata questa continuità non solo da Gentiloni che dice appunto quello che tu ricordavi, ma anche dal fatto che Renzi, come Grillo ad esempio, avrebbe preferito, è noto, andare rapidamente al voto. Quindi io credo che questo governo vada interpretato anche nel senso che l'ex presidente del Consiglio, che resta però segretario del Partito Democratico, ovvero del maggior gruppo parlamentare attualmente in Parlamento, si tiene la carta di riserva, come dire, di poter interrompere la legislatura. Ovviamente questo non si può dire, nel senso, non si può dire in sedi ufficiali, dal momento che, come dice giustamente Gentiloni, la Costituzione ci dice che un governo esiste fin quando ci sarà la fiducia delle Camere. Però è evidente che, insomma, io credo che fino al 24 gennaio, anzi direi fino a metà febbraio, perché poi il 24 gennaio la Corte Costituzionale avrà l'udienza per pronunciarsi. Deve pronunciarsi, però mi sembrava che ieri qualche giudice dicesse in realtà non ci sarà una sentenza in quel momento, perché stavo ci saranno dei pareri. Questo. Ecco, sì. Stavo dicendo questo, sì. Cioè che comunque poi la decisione di questa pronuncia dovremmo attendere almeno 10 giorni prima che diventi pubblica. Quindi fino ad allora noi assisteremo a questo balletto con il Movimento 5 Stelle e la Lega che andranno in piazza e l'opposizione che griderà al voto, ma tutti sanno, tanto l'opposizione che la maggioranza, che fino a quel momento non succederà proprio nulla. Quindi mi sembra un po' un teatrino e devo dirti che oggi alla Camera la sensazione era proprio questa, rispetto al governo Renzi, in cui tu avevi veramente la sensazione di uno scontro forte tra gruppi di maggioranza e gruppi di opposizione. Oggi l'aria era, io l'ho definita nel pezzo che ho scritto per domani, soporifera, cioè era un po' un rito scontato, anche la Lega che va fuori dall'aula, cioè non c'era nessun pathos, perché tutti sanno, i parlamentari, chi frequenta i palazzi, che fino a metà febbraio non succederà proprio nulla, quindi è un po' un gioco delle parti questo, sinceramente, è anche un po' stantio. Da una parte e dall'altra. Nel frattempo poi le cose andranno fatte e lì c'è il problema, no? Che viene sollevato della maggioranza al Senato, nel senso che, come tu raccontavi, i verdiniani, che sono 18 al Senato, hanno detto: siccome non ci avete in sostanza fatto partecipare a questo governo, noi la fiducia non ve la diamo. Però anche qui è un altro teatrino. Questo governo, a mio parere, è il più blindato da un punto di vista di maggioranza parlamentare che ci possa essere. In che senso? Nel senso che gran parte dei parlamentari presenti non vogliono andare a votare, chi per le ragioni dell'indennità, chi perché della pensione, quindi. Sì, chi perché, e che fino a settembre non la prendono, chi perché sta all'ultimo giro e sa che magari proprio lì nelle liste non verranno ricandidati. E cioè ci sono tutta una serie di cose per cui noi assisteremo a provvedimenti che magari non passeranno con la maggioranza assoluta. Però ma passeranno. Ma ci saranno una serie di senatori in missione, senatori che improvvisamente accusano dei malesseri, cioè ci saranno tutta una serie di cose per cui noi vedremo che quel... Quindi prevedi parecchi malesseri, mal di pancia, ma influenze... Voglio dire che quell'ansia che noi avevamo durante il governo Renzi, no? Quando stavamo lì a contare c'è Tizio, c'è Caio, ah mancano quattro della minoranza PD, non ci sono i verdiniani, tutto questo effetto sorpresa che non ci sarà, secondo te? Non ci sarà, no, non ci sarà. Questi viaggiano tranquilli, anzi, il problema sarà farli, come dire, a un certo punto, se ci sarà la volontà politica da parte di qualcuno davvero di interrompere questa legislatura, io mi aspetto anche delle, come dire, resistenza. Senti Barbara, questo significa che quindi secondo te non si voterà o a maggio o a giugno si andrà? Io non so quello che accadrà, certo, però invece al contrario, nonostante tutta questa resistenza, scommetterei su un voto invece in primavera inoltrata. Perché dico questo? Perché penso che alla fine, siccome poi quello che conta sono i gruppi maggiori, e i gruppi maggiori sono due, uno è il Movimento 5 Stelle e l'altro è il Partito Democratico. Allora, se regge la maggioranza renziana, e lo vedremo già domenica in occasione dell'assemblea del PD che dovrebbe decidere congresso sì o congresso no, se il congresso del PD, come sembra oggi, non si farà, è probabile perché si immagina un rapido ritorno alle urne. E c'è anche un altro motivo per questo rapido ritorno che mi rende, come dire, mi rende propensa che il ritorno ci sarà alle urne in primavera. Il referendum sul Jobs Act, cioè è pensabile che il Partito Democratico, dopo tutto quello che è avvenuto attorno al referendum costituzionale, si sottoponga a un altro stillicidio in cui vedremo Bersani o altri dire noi siamo per l'abolizione, in questo caso sarebbero sul sì, perché sarebbe sia l'abrogazione e gli altri che dicono no. E quindi, siccome sappiamo che i referendum abrogativi si sospendono qualora ci sia uno scioglimento, qualora ci siano le elezioni. Perché quando sarebbe previsto il referendum? Potrebbe tenersi in primavera anche quello. Ci dovrà essere la pronuncia della Corte Costituzionale, ci sono una serie di passaggi, però se non è, cioè si dovrebbe tenere prima dell'estate. Se così è, io immagino che la spinta per andare al voto a quel punto diventerà molto forte, almeno da parte di Renzi, più forte di quanto è oggi. E quindi immagino, queste sono le variabili che mi fanno propendere per un ritorno al voto. Poi insomma, come dire, lo scopriremo solo vivendo, come diceva una canzone. Chiaramente, cara Barbara Fiammeri, allora viviamo finché si può. Grazie Barbara, presto. Grazie a voi, buonasera. Ciao cara Barbara. Poi vedevo i messaggi. Andrea da Udine: cara Roberta, il nuovo ministro dell'istruzione, che è una ministra Fedeli, si occupava del tessile, non è che tramerà contro la scuola. Questa è una battuta, anche se la stanno attaccando molto nelle ultime ore, perché è una che ha sempre partecipato alle battaglie femminili e femministe, non capisco dove sia il problema. Poi dice questo ascoltatore, Piero da Roma: i Walking Dead hanno, i morti viventi hanno camminanti, hanno votato la fiducia a Renzuloni, ma la notizia più bella arriva da Aleppo, grazie Putin, grazie esercito siriano, a proposito del fatto che la Russia ha annunciato che è finita la guerra ad Aleppo, anche se l'ONU denuncia però tante vendette e tanti decine di civili trucidati, sia donne che bambini, proprio dai lealisti di Assad. E poi dice un altro ascoltatore: ho trovato il mite Gentiloni sottilmente arrogante, come se dovesse sottostare al marchio di fabbrica renziano, ma ora via il caso Muraro per qualche mesetto, ottimo per rispostare l'attenzione. Ma comunque la notizia è di oggi, di stanotte, delle dimissioni dell'assessore Muraro a Roma, e quindi mi pare inevitabile parlarne. Comunque continuate con le vostre interazioni, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp è 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. I vostri messaggi per le interazioni qui Effetto Notte continuano sulla pagina Facebook del programma oppure al 349-238-6666. Abbiamo ampiamente parlato della politica nazionale del neonato governo Gentiloni e della prima fiducia, quella alla Camera, domani poi se ne parla al Senato. I vostri messaggi, c'è cioè per esempio questo ascoltatore dice: possibile che gli italiani sanno solo lamentarsi, il governo Gentiloni ha avuto la fiducia, devono farsene una ragione gli oppositori, aspettare le elezioni per potersi arrampicare agli scranni. Non vedono l'ora, Renzi si è dimesso, non basta, rispettate anche il 40% dei vostri connazionali, aspettate le elezioni. E poi invece un altro dice: ma che serietà e credibilità futura per un governo fotocopia dove la Boschi, che davanti a milioni di telespettatori dichiara di dimettersi e ritirarsi a vita privata, se vinceva il no invece si vede promossa sottosegretaria alla presidenza. La verità, anche Renzi aveva promesso di ritirarsi a vita privata, ma comunque bella la battuta, se vogliamo, di questa ascoltatrice. Nirvana si firma, né Tenco né Pascoli, visto che c'è stata la battuta di Gentiloni sulla canzone di Tenco e di Pascoli, Bersani su Pascoli, dice: nell'uno nell'altro meglio Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie, questo senso di precarietà. Adesso però vi ricordo, se avete acceso puntualmente alle 21, le notizie più importanti. Governo Gentiloni, la Camera vota la fiducia con 368 sì, tensioni in aula con la Lega, Carroccio e 5 Stelle restano fuori dall'aula. È un esecutivo di responsabilità, sottolinea il neopresidente del Consiglio. Roma si dimette l'assessora Muraro, sono indagata, dice: ma sono tranquilla e respingo tutte le accuse, tra poco ne parleremo. Siria, la Russia annuncia la battaglia di Aleppo è finita, ma l'ONU denuncia che decine di civili sono stati trucidati dalle forze lealiste del presidente siriano Assad. Scalata Mediaset, Vivendi sale a 12,3%, Fininvest denuncia i francesi per manipolazione del mercato, il titolo del biscione vola. Il naufragio del 2015 con 700 morti, condannati gli scafisti, 18 anni di reclusione per il capitano, 5 anni per il suo mozzo, oltre a una sanzione di oltre 9 milioni di euro ciascuno. E poi la sentenza della Cassazione: no alle tasse ridotte per hotel di enti religiosi se non offrono prezzi significativamente ridotti rispetto a quelli di mercato. Ho appena finito una riunione di maggioranza. Ho comunicato ai miei consiglieri di aver accettato le dimissioni dell'assessore Paola Muraro. La stessa mi ha comunicato infatti di aver ricevuto da poco un avviso di garanzia per presunte violazioni del testo unico ambientale. Non sono entrata nel merito dell'avviso, ho accettato le sue dimissioni e ho assunto le deleghe alla sostenibilità ambientale. Ritengo importante infatti dare continuità all'azione amministrativa sia nel risanamento di AMA che nel rilancio di tutto il settore ambientale. Così parla la sindaca di Roma Virginia Raggi in un video selfie su Facebook notturno che ha fatto dopo che l'assessora all'ambiente Paola Muraro ha deciso di dimettersi. Una vicenda che, vi ricordate, ha centrato dall'inizio l'attenzione sulla giunta romana per le indagini alle quali l'assessora è coinvolta. Beh, dopo questa strenua resistenza di mesi, difesa anche da parte della sindaca Raggi, oggi Paola Muraro ha deciso di dimettersi dal suo incarico. Ha detto: sono tranquilla, convinta di riuscire a dimostrare la mia totale estraneità ai fatti, tuttavia, per senso di responsabilità istituzionale e per rispetto verso questa amministrazione, ho deciso di dimettermi in attesa di chiarire la mia posizione. I capi di imputazione che le vengono contestati sono 5, ma ci racconta meglio la vicenda Ivan Cimarusti, che sta seguendo per il Sole 24 Ore il caso. Ivan, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Ivan. Sì, finalmente, o meglio, anzi, alla fine è arrivato l'avviso di garanzia della Procura della Repubblica di Roma. L'ormai ex assessore all'ambiente appunto è accusato di violazione del testo unico in materia ambientale, una sanzione che prevede l'arresto da 3 mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Lei risponde per fatti di quando era consulente AMA, l'AMA è la municipalizzata che si occupa dei rifiuti urbani, e in particolare lei doveva monitorare la qualità dei rifiuti in uscita da due impianti di TMB. Il TMB sarebbe degli impianti dove i rifiuti vengono resi CDR e FOS prima di essere inviati in termovalorizzatori e inceneritori. I rifiuti appunto quindi non erano a norma, ma non c'è soltanto questo aspetto nei capi di imputazione, perché alla Muraro e anche ad altri quattro dirigenti dei due impianti sono contestati anche fatti per come gestivano gli stabilimenti, e così si scopre ad esempio che lo stoccaggio dei rifiuti veniva compiuto in aree non autorizzate, oppure non erano state adottate dei parametri per confinare le polveri successive alla lavorazione del rifiuto. Insomma, lo scenario che viene fuori è di due impianti pubblici di gestione rifiuti della capitale che insomma non erano decisamente a norma e non erano gestiti in modo appropriato, ecco. E siccome lei aveva un ruolo importante, no, di consulente di 5 esattamente anni. lei più che consulente, la procura le ipotizza che sia una dirigente di fatto dell'AMA. Comunque la Muraro non risponde soltanto di violazione in materia ambientale. L'avviso che ha ricevuto l'ex assessore, che sarà ascoltata il 21 dicembre prossimo dai magistrati, riguarda la questione ambientale. Tuttavia la procura la indaga anche per abuso d'ufficio. Si tratta di fatti però compiuti anche nella veste di assessore all'ambiente, quindi sono fatti più recenti. Si parla di presunte ingerenze nelle decisioni di alcuni dirigenti di AMA, fatti che sarebbero stati confermati anche dall'ex assessore al bilancio Minenna. Sono tutti aspetti, insomma, ancora sotto indagine che potrebbero svelare nuovi particolari. E quindi aspettiamo appunto che proceda l'indagine per capire bene dove va a parare questa storia. Intanto ricordo che la senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, oggi ha detto, l'avevamo sempre detto, in presenza di un avviso di garanzia chiederemo di fare un passo indietro, credo che Muraro lo abbia fatto di sua sponte, va bene così, andiamo avanti. Questo insomma è stato il commento della senatrice del Movimento 5 Stelle. Grazie intanto Ivan Cimarrusti del Grazie Sole 24 Ore. Ciao Ivan, Grazie. Buon lavoro. Buonasera. Allora, ancora i vostri messaggi. Dice Diop da Torino: ciao Roberta, l'Italia come la vedo io è difficile da governare perché non si può sistemare un paese in 2-3 anni. Renzi aveva la volontà di cambiarla, ma ci sono quelli che non vogliono che si cambi, quindi deve rimanere tutto come prima. Ancora tanti altri messaggi, però sentirei Crozza sulla 7. Vediamo se ci fa sorridere. L'hanno montato al volo come una tenda da campeggio della Quechua. Sai quelle che tiri in aria? Si montano fatto. Per dire la velocità, con cui l'hanno tirato su. Mi dirai. Guarda, c'è la Camusso. Buonasera, Camusso. Tu mi dirai, per forza ci hanno messo così poco. Col copia e incolla sono buoni tutti col copia e incolla. Certo che per chi ha votato no, questo più che un copia e incolla è un copia e incula. Ecco, diciamo che su questa battuta possiamo aggiornare chi sta viaggiando. Ci risentiamo tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, quindi abbiamo parlato anche del caso Muraro dopo aver analizzato la scena politica nazionale. Tra pochissimo ci sarà lo spazio europeo, ma vi ricordo quali sono le notizie principali. Appunto, la prima fiducia oggi ottenuta alla Camera dal neogoverno Gentiloni. Presidente del Consiglio ha detto che è un governo di responsabilità, basta insulti, il Parlamento non è un social network. E tra l'altro oggi Movimento 5 Stelle, Lega e Ala non hanno partecipato al voto. E poi il caso Muraro di cui abbiamo appena parlato, l'assessora all'ambiente della Giunta Raggi si è dimessa poiché è indagata, attenzione nel Movimento 5 Stelle, ci sono 5 capi di imputazione a suo carico, in l'interim intanto dell'ambiente l'ha preso la sindaca Raggi. E poi c'è questa scalata al gruppo Mediaset da parte di Vivendi che conquista il 12,32%, il titolo Mediaset vola in borsa, il Biscione denuncia il capo, il patron di Vivendi, Bolloré. Europa 24 notte.

Dicevamo, quindi una sentenza piuttosto insolita, no? Però questo giudice dice basta, perché viene troppo automatico affidare questi figli alle madri, quando invece bisogna capire che anche i padri sono in genere in grado di gestirli. Che ne pensi? Ma senta, dunque, anzitutto bisognerebbe ovviamente avere cognizione maggiore dei contenuti di questo provvedimento, che è un'ordinanza. Noi abbiamo, almeno io, notizie solo dalla stampa, diciamo, di questo provvedimento, per cui gli aspetti poi particolari legati ai risultati della perizia, all'età del minore e ai contenuti dell'ordinanza non sono noti. Però certamente si tratta di un provvedimento un po' particolare, perché da quello che riproducono i giornali la capacità genitoriale di entrambi i genitori sarebbe identica, nel senso che sia il padre che la madre avrebbero potuto essere collocatari della figlia, perché qui bisogna distinguere l'affidamento dal collocamento. L'affidamento ormai è formula che coinvolge entrambi i genitori per quanto concerne le scelte fondamentali relative alla vita, all'educazione del figlio. Però il collocamento è un altro aspetto, cioè dove il figlio ha stabile residenza, e qui normalmente è corretto dire che statisticamente è prevalente, di fronte ad una capacità genitoriale identica, che il collocamento venga presso la madre. Per cui questo aspetto effettivamente in questa sentenza, in questa ordinanza, mi scusi, è sicuramente un aspetto nuovo, innovativo, perché normalmente quando c'è capacità identica, così sembrerebbe di capire dai risultati della perizia, invece qui si opta per il padre collocatario e poi si pone a carico della madre un mantenimento, ma quello per altri aspetti che sono legati al patrimonio di entrambi i genitori. Indubbiamente è una novità, ecco, questo sicuramente è una novità. Senta, è vero naturalmente che ci sono tanti padri che si vorrebbero occupare magari dei figli quando sono separati e c'è spesso, no, conflittualità, però vogliamo anche dire che molti padri preferiscono in genere rifarsi una vita, avere più libertà e comunque adempiere i diritti e doveri di andare a trovare ogni tanto i figli, di portarli con sé. Cioè, dico una cosa sbagliata? Ma senta, guardi, ci sono ovviamente caso e caso. Certamente c'è un po' di speculazione nella fase del conflitto, dove purtroppo si trova coinvolto il minore, perché i genitori tirano un po' da una parte e dall'altra il minore, e quindi c'è qualche tendenza ad una speculazione strumentale dei padri. Però c'è una reale esigenza, devo dire, nella nostra esperienza professionale come avvocato, ma anche come studioso di questa materia, c'è una reale volontà e tendenza dei padri a pretendere un identico trattamento rispetto alla madre, anche in termini di periodi di tempo in cui il figlio può stare con il padre. Cioè è sentita realmente questa esigenza in alcuni casi. Poi abbiamo alcuni casi, questi veramente insoliti, che dimostrano il cambiamento del costume, in cui è la madre che qualche volta abbandona il padre e il figlio, e quindi in quel caso è un po' inevitabile che il figlio venga lasciato. Che sono però un po' delle eccezioni, no? In genere, ancora, dottor Cecchella. Sono abbastanza eccezioni, sì, non indubbiamente. È più facile una soluzione di diverso tipo. Senta, però ma piuttosto che chiedere ai bambini, cioè finché sono minori, dice, non sono attendibili nel esprimere delle preferenze? Ma ascolti, allora, il discorso è questo: la nuova normativa, in modo particolare quella sulla filiazione del 2014, ha offerto al minore la possibilità di essere ascoltato dal giudice, questo a partire dai 14 anni o anche prima, se ha diciamo capacità di discernimento, come dice la norma, cioè ha una maturazione tale da poter esprimere un'opinione. E in effetti l'ascolto del minore viene molto praticato, ora non so se in questo caso lo è stato, ma viene molto praticato, anzi è doveroso da parte del giudice. La Cassazione vuole che i giudici ascoltino i minori prima di prendere queste decisioni. Naturalmente anche qui c'è tutto il problema delle influenze che purtroppo il minore subisce dal genitore con cui vive prevalentemente, che poi impone un filtro alla valutazione di quello che il minore dice. Però il minore oggi ha la possibilità di essere ascoltato, anzi il giudice lo deve ascoltare su questo aspetto. Meno male, insomma, questo ci sembra fondamentale, no? Perché poi si tratta della sua vita. Dottor Claudio Cecchella, io la ringrazio molto e le auguro buona serata e buon lavoro. Grazie anche a lei, buona trasmissione, arrivederci. Grazie, ricordo dottor Cecchella, presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. E direi che siamo in chiusura a questo punto. Un occhio ancora ai vostri messaggi, per esempio dalla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre il 349-238-6666, con Alessandro che dice: ma scusa Renzi, che altre parole avrebbe potuto dire se non quelle che si ripete tutti i giorni allo specchio? Non vi siete accorti che era lui travestito da Gentiloni? Poi Francesco: sono le solite vuote chiacchiere in politichese quelle di oggi di Gentiloni in Parlamento, alla Camera. Del resto, che altro poteva dire? Peste e corna di un esecutivo del quale lui stesso faceva parte. E poi anche Domenico dice parole scontate, quelle di Gentiloni, peccato che non si sia voluto tenere conto del voto del 4 dicembre degli italiani. Poi un altro messaggio è questo di un ascoltatore o ascoltatrice che dice: ma Angelino Alfano, mentre passano i governi lui resta sempre lì, possiamo definirlo il nuovo Giulio Andreotti? In effetti è vero, nonostante a suo tempo Berlusconi avesse detto gli manca il quid, Alfano è sempre lì presente, in piedi, e passa da una carica all'altra. Non so, bisognerebbe chiedere a Giulio Andreotti dall'aldilà se questo paragone gli può piacere o meno. Noi ci lasciamo, ci aggiorniamo brevemente alle 22:00.